si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, potete cominciare fin da subito a prenotare il vostro intervento in diretta per commentare quello che sentite, ma anche per raccontarci, come ogni sabato e domenica, che cosa ha reso più bella la vostra settimana. Anche oggi in palio qualche cosa, i biglietti per le mostre dei Pre-Raffaelliti a Torino, la mostra che si svolge dal 19 aprile al 13 luglio a Palazzo Chiablese a Torino, e invece Andy Warhol, che è in mostra adesso a Roma sempre dal 18 aprile al 28 settembre. Dunque chiamateci, mettiamo in palio i biglietti, ma anche il prezioso catalogo di queste due mostre. E poi il nostro gioco di questa settimana, vi ricordo la parola chiave per essere ingaggiati con Inviati Cercasi, che è anche l'hashtag che abbiamo scelto su Twitter. La parola chiave questa settimana è vacanze, visto che è l'ultimo appuntamento per quanto riguarda questo questo gioco, e insomma poi ci avviciniamo al momento delle agognate vacanze. Vacanze intelligenti, vacanze ecologiche, vacanze sostenibili, tutto quello che volete, vacanze a risparmio. Avete tempo fino a mercoledì per scriverci alla nostra mail, si può fare @radio24.it per segnalarci le vostre buone notizie, il racconto di quella più bella lo sentiremo sabato prossimo. Tra poco parleremo di Area C, il congestion charge, il ticket di 5 euro per entrare a Milano, un provvedimento criticato, amato e odiato, che ha ricevuto però un premio dall'OCSE. E allora noi vi chiediamo, cari ascoltatori, al numero verde 800 24 00 24, cosa ne pensate? Una tassa, un inutile balzello, oppure uno strumento innovativo per gestire il traffico in una città come Milano? Tra poco, 800 24 00 024. Adesso però riprendiamo a dare un'occhiata sulle pagine dei giornali di oggi. Abbiamo letto i titoli tutti incentrati sulle ultimi fuochi di campagna elettorale. Eravamo sul Sole 24 Ore, una notizia ce la ricorda anche il Sole. Ilva, condannati 27 ex dirigenti per le morti causate dall'amianto. Su questo c'è un approfondimento anche sulla Stampa. Andiamo a leggere di che cosa si tratta. Per 28 operai dell'Ilva il Tribunale di Taranto ha riconosciuto il nesso di casualità tra la loro morte e l'esposizione ai veleni della fabbrica e ha condannato 27 ex dirigenti, tra loro anche l'ex presidente Fabio Riva, al quale sono stati inflitti 6 anni. La magistratura ha affermato il principio di legalità in fabbrica, ha detto Alessandro Marescotti di Peace Link Taranto. Vincono le ragioni delle tante vittime, perdono gli inquinatori e i loro complici. Ci ricorda la Stampa che non c'è soltanto questo, perché a Taranto si sta per aprire un altro maxi processo per disastro ambientale, omicidi colposi, omissione di cautele contro gli infortuni, concussione e corruzione, che vede coinvolte, oltre ai responsabili dell'impianto, anche, e questa è la novità più importante per il futuro, i rappresentanti politici e istituzionali come il governatore della Puglia Vendola, il sindaco di Taranto Stefano, assessori e funzionari regionali. Per definire il sistema di potere dell'Ilva, gli inquirenti hanno chiamato l'inchiesta ambiente svenduto. Le altre inchieste, spietati i manager e gli imprenditori che hanno fatto affari all'ombra di Carige, veramente spietati, perché insomma nelle intercettazioni che sono pubblicate in questi giorni sui giornali vengono fuori particolari abbastanza agghiaccianti. Ma cominciamo con Repubblica. Intanto avevano una talpa, anche loro, almeno avrebbero avuto una talpa per essere informati sulle inchieste che si stavano svolgendo sui loro traffici illeciti, e si tratta dell'avvocato di Pontremoli Andrea Baldini, Berneschi, che era uno dei capi di Carige, il capo, diceva: fammi il piacere di guardare il fascicolo, ricordatelo, e Baldini rispondeva: stai sereno, già mobilitato, già mobilitazione, mobilitation per scatoloni. Scatoloni sono i faldoni naturalmente delle inchieste. La posizione dell'avvocato, scrive Repubblica, sposato, e questo è il punto, con un giudice del Tribunale Civile della Spezia, è al vaglio della procura. Cioè questo avvocato che forniva informazioni agli incriminati nella vicenda Carige era sposato con un giudice del Tribunale della Spezia, quindi aveva probabilmente delle entrature. Vedremo. Poi la questione dei computer, dove c'erano tutte le informazioni. Allora, parlando tra di loro, Menconi, che era il capo di Ramo Vita e uno degli imprenditori coinvolti, Sandro Calloni, dicevano: ogni tanto cambiali i computer, mi raccomando, perché rimane tutto in memoria. E Menconi rispondeva: lo so, ne ho già bruciati due in giardino, li distruggo, ci butto l'alcol e li bruciano. E quell'altro risponde: sì, io però c'ho un altro metodo, no, io non li brucio, li do in beneficenza, dove non so neanche io dove cazzo vanno a finire, va dal prete e lo dai per i bambini poveri. Cioè, come anche trasformare la beneficenza in una cosa terribile, no? E poi ancora Berneschi e Menconi ad aprile cercano di trovare un compratore per il ramo assicurativo di Carige, che loro avevano spolpato con queste fatture gonfiate. Facevano comprare al ramo assicurativo di Carige immobili al triplo del prezzo, si mettevano in tasca le plusvalenze e dicevano quindi al telefono: adesso è difficile trovare un acquirente per questo pacco che ormai è quasi merda, bisogna rifarlo tutto, c'ha 140 persone in più i dipendenti, no? L'ideale è che la società vada commissariata, mi preoccupa il fatto di queste 140 persone che ci sono dentro. E Berneschi rispondeva spietato: no, tranquillo, quelli si mandano via. Cioè, dopo aver spolpato la società e fatto tutti i soldi che volevano fare, adesso si preoccupavano di liquidarla e di mandare a casa i dipendenti. Vabbè, e ancora qualche particolare forse su Corriere della Sera, ma insomma le intercettazioni più importanti sono queste. Vicenda invece Scaiola, anche qua ci sono un po' di elementi d'inchiesta. Anche i vertici della polizia erano informati dell'allarme su Biagi. Leggiamo quello che scrive Fiorella Sarzanini: anche i responsabili nazionali della sicurezza furono informati dell'esistenza di due appunti portati al ministro Scaiola dal suo segretario Zocchi relativi alla minaccia contro Biagi. La catena di comando del Viminale era dunque a conoscenza dell'allarme scattato 4 giorni prima dell'agguato mortale delle Brigate Rosse contro il giudice lavorista. La conferma arriva dagli interrogatori dei prefetti svolti nelle ultime settimane dai magistrati di Bologna, che ora indagano ipotizzando il reato di omicidio per omissione e vogliono verificare se sia stato fatto tutto il possibile per salvare Biagi. Scaiola allora ebbe a dire: rispetto ai fatti è emersa l'esigenza di accertare se nell'architettura delle decisioni adottate, al di là della puntualità dei riscontri cartolari, siano state sottovalutate circostanze o situazioni che, ove meglio approfondite o meglio ponderate da tutti i responsabili, avrebbero potuto condurre a un esito diverso delle stesse decisioni basate evidentemente, le parole di Scaiola erano queste, basate su specifici elementi di conoscenza. Cioè, lui un giro di parole per dire: dovremmo trovare un eventuale responsabile sotto di me per non aver assegnato la scorta a Biagi. Perché, finiva Scaiola nel 2002, voglio dirlo forte, non era ipotizzabile un mio interessamento mai richiesto da alcuno su una vicenda di cui non ero mai stato informato. Tutto questo è stato smentito dai fatti e dalle carte ritrovate nell'archivio del segretario di Scaiola, nel quale emerge appunto che Scaiola era stato informato. Quindi o non se n'era accorto e si era perso un appunto, però poi è morta una persona e quindi insomma sarebbe grave comunque, oppure non lo so, non ha voluto rinforzare questa scorta per qualche motivo. Del resto forse Scaiola si era fatta un'idea sbagliata di Biagi, che aveva definito un rompicoglioni, ve lo ricorderete, qualcosa che non quadra. C'è stato ancora un particolare su un'altra inchiesta, poi la smettiamo perché il resto è cronaca, che dobbiamo fare? Oggi poi c'è il silenzio elettorale, di politica non possiamo parlare. Expo, l'inchiesta Expo a Milano: pagammo tangenti, altrimenti Frigerio ci avrebbe ostacolato. Parlano due imprenditori che sono stati interrogati a lungo ieri e rivelano insomma un po' di cose. Hanno pagato una tangente di 120.000 euro, l'1% dell'appalto, la 12 milioni per avere appunto i lavori nelle pulizie nelle aziende ospedaliere di Melegnano alle porte di Milano. Quello che è importante però è che insomma loro dicono che questi due imprenditori che stanno diciamo vuotando il sacco di fronte agli inquirenti di Milano, dicono che vedevano entrare e uscire dal circolo dove si trovavano per fare questi affari un sacco di dipendenti, funzionari della regione e dell'assessore alla sanità, l'assessorato alla sanità. Dunque quello che adesso gli inquirenti stanno cercando di capire è il next step, la sanità, cioè la corruzione per avere i lavori nella sanità, è quello che emerge appunto dalle ultime notizie per quanto riguarda le inchieste su Expo. Ci fermiamo qua, 800 24 00 24, ci fermiamo qua per quanto riguarda la lettura delle pagine dei giornali di oggi. Torniamo tra poco e, come annunciato, parleremo di Area C, la congestion charge a Milano, che ha ricevuto un premio come best practice per quanto riguarda i trasporti in Europa. 800 24 00 24, tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Doesn't matter if I take my time, I'm coming home. Once I get up, I feel better, and I pull myself together. I remember those two letters, it will be okay. Everyone says now or never, I say only if it's better. Being alive is forever, we know. Questa Celebrate di Mika, perché è stato celebrato, festeggiato, ma soprattutto premiato Area C, la congestion charge, uno dei provvedimenti più criticati, discussi, amati e odiati degli ultimi anni a Milano, ma se ne è parlato anche in Italia, perché è paradigma di quello che succede anche in molte altre città. L'ingresso limitato al traffico, alle autovetture in centro. Insomma, i più scettici tra i nostri ascoltatori diranno: ma che ne sanno i burocrati dell'Ocse di come si vive a Milano? Può darsi che sia un premio tecnico, tutto quello che volete, ma può darsi anche che invece Milano sia tornata laboratorio, città di frontiera del cambiamento in Italia e in Europa. Un riconoscimento, insomma, che va valutato. Ne vogliamo parlare con chi, per la verità, ai progetti di pedonalizzazione si è abbastanza opposto, più o meno fermamente, negli ultimi anni, cioè i commercianti di Milano, in particolare Simon Paolo Bongiardino, che è vicepresidente della Confcommercio di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto chiedo anche a lei che effetto fa sapere che comunque Milano, nel bene o nel male, viene riconosciuto come laboratorio, città di frontiera, insomma un premio dell'Ocse, un'organizzazione che raccoglie 29 paesi più industrializzati, 27-29 non ricordo, tra cui appunto anche l'Italia. Beh, in generale è un riconoscimento, credo, importante, ambito, che riempie di orgoglio la città in termini, come dire, di facciata. Se entriamo nello specifico, forse l'approccio che lei diceva prima, che ne sanno i burocrati, forse, insomma, ecco, andrebbe sicuramente valutato. Comunque la soddisfazione c'è, ma non credo che il provvedimento sia il meglio che si potesse adottare. Senta, voi appunto vi siete opposti, avete sollevato critiche, soprattutto anche rispetto a provvedimenti di vera e propria pedonalizzazione. Adesso però il vostro punto di vista può cambiare, oppure, come dire, continuate a immaginare una città dove invece si possa andare con le auto più tranquillamente? Può cambiare, appunto, perché... ve lo chiedo dopo questo riconoscimento, sì, perché no, dopo il fatto che appunto Milano, proprio per questo provvedimento, tra l'altro approvato da una giunta ad un colore politico di centrodestra, confermato da una giunta di centrosinistra, e quindi c'è anche una trasversalità politica, insomma, su questo, oppure no? Beh, mi permetta di dire che c'è una certa differenza. Intanto ciò che ha fatto premio da parte dell'Ocse è stato la modifica dalla pollution, che era la pollution charge, che era quella introdotta dall'amministrazione precedente, alla congestion introdotta da questa. Traducendo i termini, vuol dire che nel precedente provvedimento i veicoli più ecologici non pagavano, mentre pagavano i veicoli più inquinanti. Nella situazione attuale pagano tutti, con eccezione di alcuni veicoli ibridi, elettrici, eccetera, che sono a tempo, e cioè dal 1 gennaio 2017 pagheranno anche quelli. Qual è il risultato? Il risultato è che nel precedente provvedimento la pollution si era creato un processo di rinnovamento del parco, e quindi di veicoli meno inquinanti, che beneficiavano non solamente l'area del centro di Milano, ma l'area di tutta Milano, di tutto il resto d'Italia. Con questa, viceversa, questi vantaggi non ci sono. I vantaggi sono però economici. Scusi, come mai? Sì, è chiaro che il cambiamento da pollution a congestion charge, a parte che questo poi è un concetto, diciamo, se vogliamo anche più difficile forse da far capire, più sottile, di fatto sempre di una tassa per entrare in centro si tratta, anche se prima c'erano forse più esenzioni proprio per i veicoli meno inquinanti, però è stato premiato proprio come dire, l'evoluzione, no? La fase avanzata di questo provvedimento adesso, quindi non vi viene il dubbio che invece come dire, un disincentivo all'uso delle automobili possa essere come dire, la vera frontiera del cambiamento e che quindi sia questo il motivo per cui è arrivato questo premio? Beh, non c'è dubbio che la motivazione sia questa. Io mi permetto di contestarla in maniera molto, molto forte e molto decisa. La soluzione non è limitare il traffico, perché di traffico si vive anche, i commerci vivono di traffico. Però si muore anche, perché si muore per la qualità dell'aria. Sì. Ma se noi avessimo vetture non inquinanti e quindi che non compromettessero la qualità dell'aria, il danno non ci sarebbe più e la circolazione ci sarebbe ugualmente. Io penso che la motivazione, siccome non credo sia di ordine politico, perché insomma l'OCSE è un istituto sovranazionale, credo che sia stato forse un errore di valutazione. Comunque la dimensione del fenomeno area C è stato significativo, importante, e quindi io dico portiamo a casa questo risultato in termini di positività, ma molto di meglio secondo me si sarebbe potuto fare, perché se andiamo a vedere gli effetti economici, certo il comune incassa 30 milioni di pedaggi all'anno e questo è un dato positivo, che però vengono investiti nella mobilità pubblica, che quindi dovrebbero essere investiti, sì, della mobilità pubblica, ma sì, questi 30 milioni chi li paga? Li pagano i cittadini milanesi. Ecco, questo è il concetto. E poi migliorare la qualità dell'aria di uno spicchio di città che vale meglio la qualità dell'aria, migliorare la circolazione di uno spicchio di città che vale il 4% del totale, come mi cambia la situazione della Milano nel suo complesso? Questa Buongiardino è un'obiezione seria, perché è un'obiezione quantitativa, però la risposta quale dovrebbe essere? Estendere, come era stato fra l'altro votato anche in un referendum cittadino, area C ad una cerchia ancora più ampia, però questo andrebbe contro quello che dite voi. Ma infatti non è certo l'estensione quello che risolve il problema. Io vorrei Dite che andrebbe eliminato andrebbe forse man mano stemperata e modificata, introducendo bonus per quanto riguarda l'aggiornamento dei veicoli e non, guarda, è paradossale che dal gennaio 2017 una vettura elettrica che inquina zero, no, debba pagare la tassa, ma il problema però va calato sul territorio. Sì. Mi preme dire che questo 4% di territorio milanese, sì, contiene 7.000 attività commerciali. 7.000 attività commerciali sono il 25% del totale delle attività commerciali di Milano, ma questo 25% produce un fatturato che è il 50% del PIL commerciale milanese. Allora si è introdotto un provvedimento che incide sul 50% del PIL commerciale milanese. Questo è il dato straordinario e significativo. Poi ecco, abbiamo, sì, imparato, sì, a convivere, ovviamente. Però no? Ecco, insomma, come dire, lei, io non convinco lei non convince, no, me, ed è giusto così, ognuno resta tranquillamente delle sue opinioni, poi si dialoga. Però ecco, una cosa che io credo che molti si domandano, tra quelli che diciamo, sono favorevoli a questo tipo di provvedimenti, relativamente alla posizione dei commercianti, perché poi quando per esempio le pedonalizzazioni, che sono fenomeno più estremo, no, di questo genere, vengono fatte, io faccio un esempio su tutti, Milano via Dante, per chi la conosce, ma ogni città ha le sue, sono poi i luoghi più frequentati dallo shopping, sono i luoghi che funzionano di più. Cioè, una volta superata la ritrosia iniziale, la paura giusta, legittima, di perdere movimento economico, poi funzionano queste cose, o no? Ah no, ma sicuramente, ma noi non siamo non nego che ci sia stato in passato un po' di dubbi sulle pedonalizzazioni. Oggi noi assolutamente siamo favorevoli alle pedonalizzazioni, ma le pedonalizzazioni devono avere senso, cioè pedonalizzare via Dante è stato un grande risultato che ha dato ha cambiato il volto della via, quindi però attenzione, poi c'è da valutare, ha cambiato i flussi d'ingresso al centro da un lato o dall'altro, insomma ci sono poi fenomeni che vanno valutati. Però per esempio quando si parla ogni tanto di pedonalizzare Corso Buenos Aires è una cosa che non ha nessun senso, cioè quella è una via d'ingresso alla città fondamentale che non può che essere automobilistica. Allora pedonalizzazione sì, con buon senso, per esempio la pedonalizzazione di Corso Como, che adesso prosegue sulla passerella fino ad arrivare all'ex Varesina, è una cosa straordinaria. Queste sono le cose da fare. Va bene, insomma continuiamo a fare di Milano il laboratorio anche per quanto riguarda la mobilità in un senso o nell'altro, in Italia e in Europa. Siamo partiti da questo riconoscimento dell'OCSE. Io ringrazio Simon Paolo Buongiardino, vicepresidente di Confcommercio Milano, grazie, buona giornata. Grazie. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vogliamo le vostre opinioni su questo, tra poco, milanesi e non, naturalmente. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno Carlo Gabardini. Buongiorno, buon sabato a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno Alessio, ciao. Subito inondati di sms contro Area C, perché nessuno vuole pagare, naturalmente. Certo. Lo so, nessuno vuole pagare, è giusto, cioè, è un istinto naturale quello di non voler pagare. Ma non lo so se è un istinto naturale. Interessante, insomma, però questa cosa qua. Vorrei sapere cosa diceva Darwin effettivamente su sarebbe il pagare l'Area C. Fare una seduta spiritica per chiedere la sua opinione. 800 24 00 24, però insomma bisogna ragionare anche un po' più ampio su questa questione della mobilità. Vabbè, sì, non credo che sia semplicemente diciamo un modo per drenare del denaro, anche se ovviamente poi c'è anche serve quello, anche per fare cassa ovviamente. Diciamo che il mio sono molto emozionato oggi. Sì. Perché il mio stage si arricchisce di un nuovo elemento, ovvero fare trasmissione sotto elezioni. Alessio, oggi dobbiamo stare attentissimi, esatto, a quello che diciamo. Sono completamente inesperto, come ben sai, e quindi non so che cosa posso dire, cosa non posso dire. Tipo la parola Europa, posso usarla? Oppure siccome siamo sotto europei, si non può si può dire. Europa sì. Si può dire. Ma i nomi dei tre leader no. Basta che non stai pensando a un partito. Allora non devi neanche pensarlo. Ah, perché sennò si intuisce. Pensiero, perché in effetti se uno sta pensando Tsipras. Ah no, oddio, Tsipras non posso dirlo. Ma che Tsipras è anche ormai difficile che scappi così. Vabbè, allora io devo dire adesso Schulz o Verhofstadt. Ah, per par condicio. Ah, così, perfetto. Quindi poi se basta. Uno dice Europa, l'altro risponde Stati Uniti. Così. Esatto. Giustamente. Andiamo avanti così tutta la mattina. Molto bene, quindi insomma se sbaglio correggimi, giusto? Inizio con una storia svedese, la storia di Oscar, che è un signore che è stato un accanito attivista vegano insieme a sua moglie, erano tutti e due vegani attivisti e si occupavano di questa cosa. Poi Oscar si è ammalato di Alzheimer a un certo punto, insomma dopo tanti anni, è un anziano signore, e è stato ricoverato in una struttura psichiatrica in Svezia. A questo punto lui, ovviamente, dentro della struttura, ogni giorno gli venivano proposti piatti non di origine animale, essendo lui vegano. Finché, però, a un certo punto, per sbaglio, assaggia le polpette al sugo. Dopo aver assaggiato le polpette al sugo, Oscar, ex attivista vegano, anzi, attivista vegano, malato di Alzheimer, non vuole mangiare null'altro, proprio nient'altro, perché lui dice io voglio solamente le polpette al sugo. A quel punto si apre un contenzioso, perché la moglie dice no, voi dovete dargli da mangiare solamente cose vegane, perché lui era vegano, e gli stessi operatori che dicono ho capito, ma se lui chiede quello è questa vicenda finisce davanti al Ministero svedese della salute e del welfare per decidere, ecco perché ce la racconto, esattamente c'è un risvolto, per decidere che cosa fare. Le due posizioni, diciamo, c'è Erik Blenberger, che è un membro del comitato etico del ministero svedese, che dice che per il principio dell'autodeterminazione Oscar deve poter mangiare quello che vuole lui. E invece la moglie, Hilde Lindemann, no, una filosofa, sì, che diciamo, sì, sta dalla parte della moglie, dice che Oscar non è libero di scegliere, dato che soffre di demenza a uno stadio così avanzato da non poter più essere assistito a casa sua. Una vicenda veramente... Quindi non è... Sì, sì, in realtà la vicenda alla fine il comitato etico decide che Oscar può mangiare quello che vuole, cioè vince questo l'autodeterminazione. Esattamente, vince l'autodeterminazione. Ovviamente è una buona notizia, ma la notizia è curiosa, perché in realtà apre degli scenari interessanti sul fatto, appunto, su che cosa uno può decidere, se è in grado di sì, decidere o meno. Comunque a me la cosa che mi incuriosisce è che tu sei vegano per tutta la vita, a un certo punto assaggi una polpetta al sugo e dici: io voglio solo polpette al sugo. Sarà che io conosco quella di mia mamma, così, tu la leggi però così. È interessante. Io sicuramente a questo punto voglio assaggiare le polpette al sugo di questa struttura svedese. Arriva il Pendolibro 2014. Che cos'è? Il Pendolibro è un ebook che è già stato fatto l'anno scorso, nel 2013, che ha avuto molto successo, ovvero tutti i pendolari hanno la possibilità di raccontare le loro avventure giornaliere e diventare essi stessi protagonisti, appunto, di un libro che verrà poi condiviso su internet. Il Pendolibro nasce da un'idea di Libreriamo, che è una piazza digitale, diciamo, per chi ama i libri e la cultura, e si propone di raccogliere, selezionare, produrre ed editare un libro scritto dagli stessi pendolari. Per partecipare al Pendolibro 2014 è molto semplice, basta scrivere uno o più racconti brevi legati alla propria esperienza di pendolare e andare sul sito www.libreriamo.it, cioè uno, inserire il proprio racconto e poi sfogatoio. A luglio, esatto, sì, però letterario, diciamo. E a proposito di sfogatoio, bello, infatti, visto vuoi che sfogarti? No, non voglio sfogarmi. Cos'hai, però siccome gruppone? Già altre volte ho parlato di Trenitalia, sull'impossibilità di spostare un biglietto, ieri dovevo andare a Roma per un provino, avevo fatto il mio simpatico biglietto andata e ritorno in giornata, poi in realtà il provino è saltato perché la casting mi ha detto che sarebbero venuti loro a Milano, quindi io il provino lo farò settimana prossima a Milano e io quindi non dovevo più andare a Roma. A questo punto sono andato sul sito, il biglietto l'avevo già comprato e ho detto, ho cercato di capire se potessi avere un rimborso, se potessi spostarlo. Non dirmi l'andata, che non ci sei riuscito. E ritorno in giornata si può spostare solo di orario, che diventa un po' difficile, perché se non devo più fare il provino non devo andare a Roma, non è che vado a Roma due ore dopo. E allora nel regolamento, perché ho parlato con Trenitalia via Twitter, è abbiamo discusso regolare, però, È regolare perché c'è scritto non è permesso il rimborso. Io devo dire che nel momento che si pagano 109 euro per andare e tornare da Roma in giornata e io poi decido di non salire per niente su quel treno e quindi di comunicarlo a Trenitalia e di dare loro la possibilità di rivendere il biglietto, onestamente trovo un po' ingiusto che io non abbia o in parte un rimborso, che io possa spostare il mio biglietto ad altra data da destinarsi. Chiudo qui perché vogliamo ascoltare delle telefonate prima del giornale radio. Dalle lamentele sul treno a quelle su Ecopass e Area C a Milano. Paolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo segnalare che c'è un modo per non pagare Area C a Milano. Sì. Ed è quello di andare tutto elettrico, soprattutto per quanto concerne Giusto. Il traffico commerciale. Certo. Fra una decina di giorni io rappresento una piccola media impresa nel settore della logistica e delle spedizioni. Sì. Siamo i primi in Italia ad aver acquisito un camion di portata di 5 tonnellate, sì, 100% elettrico, con una capacità di percorrenza intorno ai 200 km. Paolo, facciamo una cosa, ce la finisce di raccontare dopo la pausa, abbiamo il giornale radio, non abbiamo più tempo, però ci interessa la sua storia dei camion elettrici, se resta con noi la richiamiamo, lo facciamo dopo il giornale radio 800 24 0024, a tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Servirebbe sapere la strada già per aggirare tutte quante le barriere, o quale sia la strada giusta per giustificare il male, da alleviare il dispiacere. Mi servirebbe saperlo quanto prima e farmi male, farmi male, farmi male. Mi servirebbe deve sapere Antonio Maggio, Festival di Sanremo di questa edizione, giovani tra l'altro, segnalatoci da Corrado Attanasio la vostra canzone, il vostro Si può fare in musica, in musica di questa settimana. Io direi quasi che sarebbe bello se oltre a segnalarci la canzone ci scrivete anche una frase, una vostra frase legata alla canzone, al vostro stato d'animo, al vostro Si può fare. E se poi la cantate quella frase è perfetta, così perfetto, ci mandate finalmente la vostra canzone, giusto? Scritta da voi, cantata da voi, il vostro vero Si può fare. Perché no? Anche perché abbiamo detto, oltre a canzoni note, mandateci anche le vostre canzoni, veramente brani inediti, i vostri Si può fare in musica. Abbiamo fatto l'esempio, c'è, cioè, Azzardopatia, quella dei ragazzi di Pavia, canzoni legate anche ai temi del programma, sulla legalità, sul sociale. Anche perché così facciamo finalmente il nostro CD, che non può essere fatto solo di cover. No, poi ci vogliono anche brani inediti. Spero che mi si senta un po' meglio, perché come mi fanno notare in molti su Twitter, prima mi sentiva come se fossi in cantina, e penso che sia perché ho detto Tsipras, perché siamo sotto elezioni europee, e quindi nel momento in cui ho detto Tsipras, diciamo, c'è stato un boicottaggio, e quindi il mio microfono è esploso davanti a me praticamente. Sono le cimici dell'Unione Europea che intervengono per criptare, esatto, sono per la par condicio. Allora, va bene, i nostri contatti, se volete inviarci anche la vostra canzone, Si può fare at radio24.it in mail, oppure chiocciola Si può fare 24 su Twitter, il nostro account è mio, chiocciola Ale Maurizi, e il mio è chiocciola Carlo Gabardini, e poi siamo anche su Facebook. Allora, avevamo il nostro Paolo da Milano che ci stava parlando di una iniziativa che riguarda il traffico a Milano, l'area Paolo, C. L'area C. Sì. Sì, buongiorno signori. Buongiorno. Sì, più che il traffico per Milano, sì, in area C a Milano era una novità, sì, a livello nazionale, dove noi, una piccola media impresa nel settore della logistica, dopo un percorso lungo quasi un anno e mezzo, siamo riusciti a mettere in servizio il primo camion, definibile camion, cioè non furgon, cioè non a piccole portate, diciamo per l'ultimo miglio, il primo camion con una portata di 5 tonnellate di merci, quindi con una buona portata, per servire appunto i negozi nel centro di Milano. In questo modo decongestioniamo dal numero dei mezzi che affluiscono in centro per le consegne, sì, ai negozi, e soprattutto andiamo senza emettere un solo grammo di CO2 o PM10 o qualsiasi altra cosa. Paolo, complimenti. Questo potrebbe, anzi, lei partecipa d'ufficio al racconto su che cosa ha reso bella la sua settimana, perché la prossima settimana, quando entreranno in funzione questi camion, insomma, si porta avanti, quindi partecipa alla vittoria dei biglietti. Aveva telefonato per lamentarsi, e invece sta partecipando a un concorso. È perfetto. Beh, direi. No, io non lo sapevo, cioè, a me sembrava giusto, sì, come uno dei grossi problemi a volte fare sapere che cosa succede, non esatto, tanto che succeda. Giusto. Parole sante, Paolo. Beh, grazie. Anche ragazzi, che succeda, perché se non succede, sì, non si può far sapere che succede. Per far sì che succeda ci vuole qualcuno. Magari, guardi, e testone come me. Ci richiami tra una decina di giorni, dopo che è partita questa attività con i suoi camion elettrici, e ci faccio sapere come sta andando. 800 24 00 24. Vi ricordo, cari ascoltatori, che si vengono i biglietti per la mostra e anche il catalogo, i Pre-Raffaelliti, l'utopia della bellezza a Torino, e Wall, che è la mostra che si è trasferita a Roma. Mettiamo in palio, che è un po' straffaellita, direi, Warhol, giusto? Beh, sì, sono ignorante, però direi che è un po' straffaellita Warhol, Andy. Allora, Warhol, virgola, Andy. Abbiamo, chi abbiamo? Ludovico da Milano, sempre tutti da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, io volevo dire molte cose che hanno già detto i vostri due miei primi... colleghi ascoltatori. Chi è che l'ha preceduta? Va bene, sì. Esatto, il radioascoltatore, sono un po' emozionato. Ci mancherebbe di anch'io. Dire questo, che comunque l'Ecopass non serve solo a niente, perché far intascare soldi, milioni e milioni di euro al comune di Milano. Invece di abbassare l'inquinamento, l'hanno alzato, perché tutto attorno alla cerchia dei bastioni, e comunque fuori dalla zona area C, c'è traffico a non finire. Perciò c'è più traffico fuori che poi va a finire dentro la città. Ma di più è difficile. Centro... Mi scusi, ma perché non è che ce ne può essere di più di prima, nel senso che ce ne sarà quello che c'era prima, e probabilmente ci sarà qualcuno che, dovendo lavorare in centro, decide invece di usare i mezzi pubblici per arrivare al lavoro, e quello la macchina non l'ha presa, giusto? No, ma perché per attraversare anche la città, che prima attraversavi la città per andare da sud a nord, attraversavi la città e eri diritto. Mentre così adesso devi fare tutto il giro. Vabbè, Milano è molto piccola, quindi non è che il giro o no, diciamo tagliare per il centro. Ma è congestionato a morire. Ad esempio adesso Ludovico, grazie. Questa obiezione è stata fatta ed è in parte anche giusta, anche se c'è da dire che il numero di veicoli misurati è diminuito proprio per l'effetto che diceva Gabardini. Del resto è stato votato un referendum per estendere l'area C proprio perché i cittadini sono consapevoli del rischio che si giri intorno al centro e quindi vorrebbero estenderla fino a Padova. Se riusciamo a estenderla fino a Padova per esempio, le macchine poi dopo giustamente chiamerà qualcuno da Trieste dicendo non facciamo un sacco di traffico perché l'area C arriva solo fino a Padova. A proposito di traffico, abbiamo un altro ascoltatore, lo facciamo dopo il traffico. Roberto da Milano, torniamo tra un attimo. Si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci di nuovo in diretta con Roberto che ci chiama da Milano. Oggi telefonate monopolizzate da Milano, adesso siamo partiti da qua. Però questa cosa qua dell'ingresso vietato alle macchine in città, c'è un po', insomma, un po' in tutte le città ci sono piccole zone con restrizioni, telecamere, è un po' la moda del momento e noi cerchiamo di capire se è moda. Sì, no, non me ne intendo molto, sarà che non ho la patente e quindi diciamo la vivo meno questa. Sì, sì, questa ma questione. Se ti capita però di andare in macchina, quasi in tutte le città ormai ci sono, si sperimentano cose così, no, magari non col ticket, però. No, infatti è forse il problema del ticket, perché sì. Il problema secondo me, nel senso che il problema del traffico e dell'inquinamento è enorme a Milano, ovviamente. Renderla diciamo semplicemente una questione economica sembra di dire se hai i soldi puoi inquinare, se non hai i soldi lasci la macchina a casa e prendi il tram, in questo senso che forse può essere una non soluzione. È vero, del resto però non c'è meglio della moneta per creare incentivi e disincentivi e quindi poi alla fine si casca su quello. Roberto, lei cosa ne pensa da Milano? Se chiamava per questo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì. La prima parola è viva l'area C. Estendiamo l'area C. Grandissima cosa, a due condizioni. Tuteliamo i residenti e facciamo in modo che chi sviluppa l'area C si parli con chi si occupa di viabilità. Lei è residente, per esempio? Prego? Lei è residente in area C? No. Sì. Io sono sul limitare, io sono nato sui bastioni e vivo sui bastioni. Ma detta così. Quindi è fuori dall'area C. Sono fuori dall'area appena C. Appena fuori. Momento, ma io dico estendiamo l'area C. Certo. Però cioè, bisogna che prenda anche casa sua, diciamo. Ma che prenda casa mia, ma che prenda la circonvallazione della, come si chiama, non dei tram, quella successiva. Quella esterna. Sì. Ma va benissimo l'estensione dell'uso delle city bike, ma per carità facciamo delle corsie riservate alle biciclette e non che le biciclette vadano sui marciapiedi. Va benissimo l'estensione dell'area C, però facciamo in modo che i residenti abbiano dei parcheggi veri, privilegiati, perché altrimenti io dove me la metto la macchina? Nel bagno non ci sta. Certo, dipende dal bagno. Ma visto che lei abita sul limitare, visto che abita sul limitare dell'area C, c'è più traffico adesso che esiste l'area C, perché in teoria dovrebbe essere proprio la zona interessata di tutti quelli che dicono: oh porca miseria, devo pagare 5 euro, aspetta che giro e faccio i bastioni. No, secondo me no. Secondo me non c'è più traffico. Certo, ci sono delle idee che a Milano non hanno utilizzato. Adesso non mi ricordo se a Parma o a Reggio c'è la famosa onda verde. Perché non facciamo un'onda verde sulla circonvallazione di Milano? L'onda verde è la questione dei semafori? La questione dei semafori, certo. Perché non l'abbiamo fatta? Perché invece in Viale Premuda, Viale Piave e compagnia hanno ristretto le carreggiate invece che facilitare lo scorrimento? Vabbè, adesso entriamo troppo nello specifico però, perché Roberto, essendo noi una radio nazionale diventa troppo specifico parlare di Viale Premuda. Sì. Di viabilità. Grazie Roberto, cogliamo il suo spunto, si dice così. Sì. Insomma, la sua approvazione per Area C e anche le proposte di correzione, insomma, come era naturale che fossero, gli ascoltatori si dividono su questo. Adesso però continuiamo a parlare di mobilità, andiamo in Svizzera e andiamo a incontrare appena di là dall'Ecopass dall'Area C, Italia. Dove c'è un signore, un imprenditore che possiamo definirlo un talebano della mobilità sostenibile. Adesso capirete perché. con me, stammi accanto, per esempio in automobile, per non andare da soli, per non andare da soli, il carpooling, riempire l'automobile è quello che in pratica impone questo signore, un imprenditore svizzero, si chiama Enzo Maggi, titolare della Farone Sa di Stabio, in Svizzera, un'azienda di orologi che insomma ai suoi dipendenti chiede che cosa. Maggi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io l'ho definita un talebano della mobilità sostenibile, non so se si offende, però no, no. Sembra questo però, eh? Un po' sì. Ci racconti un po'? No, dunque, semplicissimo, noi nel 2008 abbiamo costruito la ditta nuova e allora ho voluto introdurre questo, visto che il traffico cominciava a diventare un po' insopportabile, introdurre questo nuovo sistema semplicissimo che viene attuato già senza nessun problema nella Svizzera tedesca, perché la nostra ditta è una ditta svizzera tedesca. Ora ho semplicemente adottato il sistema che usano a Basilea, no? Cioè ditta nuova, è finita la festa, ho 3-4 in macchina, altrimenti io non vi assumo più. No, dobbiamo spiegarlo bene, intanto perché ci sono un sacco di frontalieri giustamente che vengono dall'Italia e arrivano in macchina a lavorare nella sua azienda, giusto? Sì. E se non ricordo male, lei ha intanto organizzato un servizio di pullman, per cui i dipendenti, se vogliono, possono prendere il pullman. Lei c'ha un pullman da 54 posti ed è un servizio lodevole, devo dire, che paga l'azienda, cioè quindi che paga lei, e loro possono salire a prendere il pullman, oppure se hanno proprio voglia di venire in macchina, purché lei dice o venite in almeno 3-4 in macchina, oppure questa cosa potrebbe creare dei problemi, addirittura parla di licenziamento, giusto? No, licenziamento in questo senso, cioè io non assumo cioè, non assumo chi ha la macchina piccola, diciamo, perché se uno ha la Smart come si fa a venire in quattro? Ah, non è il mio problema. Non ci aveva pensato. Non è il suo problema. Cioè se uno ha la Smart, no. Non, vabbè, la viene in due in quel caso, si sta in due nella Smart, sì. Però da quello che mi risulta non ci sono Smart. Non ci sono Smart. Perfetto. Ha fatto un controllo. Senta, ma questa cosa qua, a parte gli scherzi, cioè noi siamo con lei, intanto. No, noi siamo dei fautori della mobilità, però non è legale questa cosa qua che lei fa, è un po'... no? O sì? No, è legale perché io non ho avuto problemi né con le autorità cantonali né con i sindacati, dunque, anzi, sono stato... Vengono in pullman appunto... anche i sindacati? No, perché di solito io trasmetto queste misure per coscienza ai sindacati e alle autorità cantonali, no? Certo. Però non ho avuto nessun problema, anzi, tutti che hanno lodato il nostro comportamento. Ma anche perché, mi corregga se sbaglio, anche perché diciamo ha un po' il sapore della provocazione, nel senso che immagino che ovviamente nel momento che lei dovesse veramente licenziare un incallito guidatore solitario, esatto, che arriva sempre da solo con la sua macchina, giustamente lei dice io sarei per licenziarlo, però non credo che quella lì sarebbe una giustificazione sufficiente per mandarlo via. Ci arriverebbe a tanto? Sì, ma non succede comunque. Ho visitato un anno prima. Guardate che l'anno prossimo col trasferimento nella ditta nuova ci sarà questo e quell'altro. Senta, ma lei quanti dipendenti ha? Diciamo sui 380. Quindi non sono pochi. E intanto gli affari vanno abbastanza bene. Lei si occupa di orologi? Fortunatamente. No, noi facciamo motori per orologi. Ah, beh, scusi, motori per orologi, quindi una componentistica. Cioè, orologi a motore sono? Che vanno a benzina? No, mi scusi, sono lo stupido dei due, io non sono giornalista, però mi sembrava divertente che vieta alle persone di arrivare con la propria macchina e poi dopo fa orologi che vanno a benzina. No, vanno a batteria. Ottimo. Senta, ma quindi 300, quasi 400 dipendenti, insomma, lei che fa? Li controlla? Come fa poi a controllare che effettivamente... Perché sì. Sul pullman c'è sempre la lista con la cosiddetta capo pullman, no? Accidenti. Prego? No, dico accidenti, no, perché immagino questa... ripeto, noi siamo con lei, perché siamo anche noi dei fautori della mobilità sostenibile, figuriamoci. Abbiamo parlato in modo elogiativo di Area C, l'auto va lasciata a casa, io sogno di vivere in una città come New York, dove vanno tutti o in taxi o coi mezzi pubblici, le macchine non ci sono perché è una schiavitù. Però immagino quello che fa lei, fatto in Italia, non so se... già l'annuncio se resisterebbe l'imprenditore. Probabilmente. Qui c'è un po' un altro sistema, diciamo, no? Comunque i pullman vengono controllati da queste due donne, diciamo, lui nessun problema, mentre per il posteggio, affinché arrivi nessuno da solo fa, o c'è qualcuno che faccia il furbo, viene sempre data ci sono degli incaricati, due o tre, che ogni tanto fanno queste prove a vedere se tutto in ordine, cos'è. Però insomma ci sono le ronde, le ronde. Una specie di ronda, però non funziona, perché nessuno mette a repentaglio il proprio posto di lavoro per fare il furbo, dunque funziona senza nessun problema. Cioè, però a lei non interessa il motivo per cui uno fa una scelta, cioè uno che è convinto di una scelta consapevole di non utilizzarla, cioè a lei interessa che facciano così, anche se a spingerli è la paura, perché sembra un po' un regime paura, sono le nostre condizioni, non è che uno è obbligato a accettarle, perché quando vengono a noi per avere il posto di lavoro è chiaro che uno farebbe, non dico qualunque cosa, è questo però... che dico, nel senso che è interessante come provocazione, perché non è che uno può mettere qualunque condizione di lavoro, perché uno può dire nel mio posto di lavoro voi dovete lavorare a testa in giù, questo non si può fare, nel senso che non è che siccome l'ho detto prima allora a posto. Però questo... io sono d'accordo che è interessante, diciamo, è un po' una forzatura, e forse in questo momento è una forma di responsabilità sociale dell'impresa che ricade sui dipendenti. D'altra parte lei dà anche una scelta, che è quella dell'autobus. Quanti autobus lei fa girare? Due per 108 persone. Beh, no, ma infatti questo è ottimo. Diciamo che se lo scopo non fosse a fin di bene, è ovvio che qualcuno potrebbe dire no, non va bene. Nel senso che se lei avesse il puntiglio che volesse solamente dipendente con l'automobile rossa, sarebbe un po' difficile da difendere come questione. Però essendo a fin di bene, noi mi sembra una forzatura di sicuramente di qualunque contratto nazionale. Se senta, vogliamo. Ma ha fatto proseliti? C'è qualcun altro che si è allineato a lei? O... Purtroppo fino adesso non così tanto. Non così tanto, perché è tipico della mentalità italiana ticinese, che se non si obbliga non funziona. Mentre io vedo dove c'è la sede principale, dove ci sono i frontalieri tedeschi e i frontalieri francesi, nessun problema. E questo viene fatto da 32 anni. Cioè, che cosa, scusi? Quelli che vengono dalla Francia vanno tutti che fanno il carpooling. Ma è anche per loro è obbligatorio? O loro lo fanno in maniera volontaria? Nella farmaceutica brasiliana, che è un'industria a livello mondiale, tutti vengono in quattro macchine, non c'è nessun problema. Ma è un obbligo o è una facoltà di scelta? Dunque, adesso l'hanno fatto come obbligo negli ultimi anni, perché vedevano che aumentano il numero delle macchine così. Però quando l'hanno introdotto 32 anni fa, era una scelta. Del resto è anche un modo per risparmiare, no? Riempire l'auto per andare a lavorare. Certo, è una cosa intelligente. Noi ci associamo idealmente assolutamente. Sperando che non ci siano punizioni corporali. Bisogna finire poi tutti insieme, perché a quel punto poi per tornare a casa bisogna assolutamente. Però essendo una fabbrica di orologi, direi che almeno la puntualità sarà garantita. Sì, ma dovrei aggiungere ancora una cosa importante. Sì, prego. Perché noi quando assumiamo le persone, la prima domanda non è il nome e cognome, come si fa d'abitudine, ma è che auto sei disponibile? Sei disponibile a dividere l'auto e venire in corriera? Ecco. Però. Ma state assumendo ancora? No, così giusto per sapere. Per io di adesso, quest'anno ne abbiamo presi ancora una decina. Dovete assumere pullman muniti, direi. Con gente che ha proprio il pullman a casa, così vengono in 12 con la stessa macchina. Grazie, Ezio Maggi. Grazie. Complimenti. Titolare della Farone di Stabio. Beh, insomma. È un bellissimo progetto, ripeto, anche se ha diciamo in nuce la forzatura, forse non totalmente legale, mi sembra molto molto interessante. Sì, su questo aspetto, se sia legale o meno, è stato un po' evasivo, No, lui addirittura però ha detto che l'ha comunicato ai sindacati, però ai sindacati svizzeri, suppongo, che credo che non siano esattamente quelli della Camusso. Traffico. Sentirsi con un papa senza santi da pregare, si può fare. Fare. 8 800 24 00 24. Cari ascoltatori, aspettiamo i vostri commenti dopo l'incredibile storia del titolare di questa impresa di motori per orologi in Svizzera, che impone ai suoi dipendenti di riempire l'auto per andare a lavoro, dando tra l'altro come alternativa però il pullman aziendale. Quindi insomma, fa anche un servizio, però chiede questo impegno sulla mobilità sostenibile. È una cosa che non si era mai sentita forse al mondo. Però, infatti, è molto interessante. La Svizzera ci vuole, esatto, fare questa giustamente cosa. Ricordi che il fatto che lui mette anche a disposizione il pullman, certo, perché come sempre, se no uno diciamo, fa un'imposizione che sembra semplicemente negativa. Lui dice: io già avevo messo il pullman, non volete il pullman, almeno riempite l'auto. Volete venire in auto? E venite almeno in quattro, se no che risparmiate, rimanete pure a casa. Sergio da Milano, buongiorno. Tutti da Milano oggi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo parlare dell'area C. Sì, sì. Secondo me è semplicemente una questione per il comune di fare dei soldi. Cioè non crede che abbia disincentivato l'uso dell'automobile? Assolutamente sì, visto che bisogna pagare 5 euro, ma in ogni caso. Quindi diciamo, almeno come effetto collaterale a quello sì. Certamente. Io posso dire solo la mia esperienza. Io viaggio, sì, fortunatamente o sfortunatamente per lavoro, viaggio parecchio. È stato in Svizzera? In Germania. No, la Svizzera la passo violentemente senza fermarmi mai. Ah. Perché violentemente? Ma non ce l'ha su con gli svizzeri. Non è un paese che mi sconvolge particolarmente, no, ma comunque per carità, vabbè, ci mancherebbe. Vabbè, comunque non va in area C, nel senso che lei per lavoro fa Italia-Germania, Italia-Svizzera, questo? Esatto, no, ma quello che volevo dire è, sì, che in Germania ogni paesino ha la sua area C, chiamiamola. Sì. No? Sono isole pedonali dove non si può andare in macchina. Ed è, diciamo, codificato il fatto che non si possa andare in macchina. Allora, ma sono zone pedonali o sono zone dove si può transitare a pagamento? No, sono zone pedonali. Ah, quindi non è un'area C, perché è diverso. Esatto, non, sì, è un'area C. Ma allora, se vogliamo fare una zona pedonale, se vogliamo pulire l'aria di quella zona di Milano, non è che si pulisca con 5 euro, o è inquinata o non è inquinata. A questo punto chiudiamo dal centro a Castello e facciamo un'immensa area pedonale. Diventa un po' un problema per i residenti. Io sarei favorevole. Nel senso che i residenti... Tutta la vita. È una zona molto vasta. Dove circolano solo mezzi pubblici, autobus, taxi, esatto, e mezzi, esatto, di servizio e basta, strettamente autorizzati. E non c'è bisogno di pagare i 5 euro. Ma però i residenti bisogna farli entrare. Sergio, almeno i residenti bisogna... Giusto, facciamoli entrare i residenti. Sì. Ma lei sa che ogni residente ha 35 entrate? Sono poche. Sì, resto no, voglio dire, no, ma le voglio chiedere gli altri 320 giorni che deve entrare e uscire, che cosa fa? Paghi 5 euro? Sì. Mi sembra una cosa assurda. È assurda, però è una tassa per chi abita in centro. Questo che dico, nel senso che io capisco benissimo, e lo dicevo prima, nel senso che non penso che inquinare debba essere una questione economica, quindi se sei ricco puoi inquinare, però questo è un modo per disincentivare. Il fatto che il comune, visto che siamo in epoca di crisi e ha bisognissimo di soldi, tiri su anche dei soldi da coloro che invece per forza decidono di andare in macchina perché vogliono andare in macchina davanti al negozio dove, chiaro, comprano un portachiavi, e loro pagheranno 5 euro e li prende il comune, che li userà per qualcos'altro. Quindi non mi sembra una cosa così profondamente ingiusta chiedere 5 euro. Va bene. Grazie Sergio. No, grazie, io su mille. Questa cosa invece sono d'accordo con lui, cioè per i residenti è un problema, insomma uno si abita lì, si trova a vivere lì e deve pagare per prendere la macchina, magari per andare fuori. No, è un po' un problema, no? Però insomma, d'altra parte ogni misura ha delle controindicazioni, non c'è niente da fare sul fatto di vivere in pieno centro Milano. Non è che di solito se vivi in pienissimo centro Milano il tuo problema non è esattamente pagare i 5 euro dell'area C. Adesso è il momento di conoscere il nostro prossimo inviato per la serie Inviati Cercasi, anche l'hashtag che abbiamo scelto su Twitter per la nostra iniziativa. Ogni settimana una buona notizia su un argomento. Questa settimana l'argomento era lo spreco. Sentiamo di che cosa andiamo a parlare. Blue. lasciamo il nostro inviato di oggi, Augusto Lacala, credo Lacala o Lacala, buongiorno. Augusto è più che sufficiente. Augusto, buongiorno. Presidente di Bidonville, un'associazione napoletana, ma anche di Rete ONU, operatore nazionale dell'usato, coinvolto nel progetto Rebit, che prevede il riutilizzo, il recupero dei computer utilizzati col sostegno, credo anche del Comune di Napoli, per poi donarli alle scuole e alle biblioteche. Una delle, insomma, notizie di cui siamo venuti a conoscenza sullo spreco è quella che ci ha colpito di più. Augusto, ci vuoi raccontare che cosa fate? Sì, è molto semplice. Cerchiamo di recuperare tutto il recuperabile da computer che invece sarebbero destinati a nella migliore delle ipotesi al riciclo, se non addirittura alla discarica. Uh-huh. Praticamente ci prendiamo tutto quello che è ancora sano all'interno del computer e ne costruiamo un altro, non aggiornatissimo, non ultimo modello, però funzionante, e che abbiamo destinato a associazioni, biblioteche, se non addirittura alcune scuole che ne erano sprovviste per i database fondamentali, chiaramente senza arrivare a esasperazioni, ma funzionanti e utili fondamentalmente. Dove li prendete questi computer? Li raccogliamo prima di tutto attraverso varie tipologie, c'è una donazione volontaria, perché il tutto è stato, si è sviluppato questo progetto fondamentalmente con l'Università Partenope di Napoli, sì, attraverso il professor Ulgiati, il quale è stato il promotore di questa iniziativa, quindi sicuramente gli studenti inizialmente dell'università hanno raccolto a casa, poi dopodiché si è sparsa la voce e questo ha fatto sì che abbiamo creato questa giornata di raccolta, ma anche perché è un argomento molto attuale, quella della regolamentazione RAE, no? Su tutti i RAE. Su tutti, sì, ci sono delle precise norme europee per il recupero di questi materiali che sono anche preziosi, tra l'altro ci sono materiali importanti dentro i computer, poi c'è della plastica, c'è l'involucro, però insomma c'è anche del lavoro dietro e voi giustamente cercate di non buttare via niente, di non sprecare, ma insomma si riesce poi a chiudere veramente il cerchio partendo da questo recupero dei materiali e poi veramente donarli alle scuole. Veda, questo è un inizio evidentemente, ma qui su Napoli è una delle tante iniziative che si fanno sul riuso. Sì. Io personalmente sono presidente dell'associazione Bidonville, che ha come slogan appunto l'associazione che riutilizza tutto, anche la testa, così come Rete ONU, che raccoglie tutti gli operatori dell'usato d'Italia, o quantomeno gran parte, e proprio raccomandando il riuso e il riutilizzo, perché noi crediamo che nel riuso ci possa essere un contributo a risolvere un po' di problematiche, come per esempio nuovi posti di lavoro, nuova economia, green come si suol dire oggi, sì, e recupero nei confronti dell'ambiente. Mm-hmm. Perché non ci dimentichiamo che è evidente che tutto quello che gli scarti, perché tali noi li consideriamo e non rifiuti, ma gli scarti purtroppo poi finiscono dove non dovrebbero e quindi ci sono forme di inquinamento enormi ambientali. Lei pensi che un computer, per esempio, sì, da solo il recupero di un computer fa risparmiare quasi un barile di petrolio, perché per la produzione di un computer equivale a 145 kg di petrolio, che poi si trasforma chiaramente in CO2. Quindi per noi ogni computer che riusciamo a recuperare e quindi a non produrre, a non, sì, riprodurre, perché è evidente che ci sono delle esigenze di base che si possono tranquillamente soddisfare con questi riutilizzati e riattati, evita di quello che possono essere produzioni e quindi sprechi e contemporaneamente salvaguardia. È un circolo evidentemente virtuoso, che è da solo, c'è una materia prima dove è soltanto il valore aggiunto che viene messo, che inizialmente è basato sulla volontà di alcuni, ma nel tempo, e già questo avviene in alcune città d'Italia con le riciclerie, è dove invece si rivendono queste cose, che non sono solo i computer, ma sono le apparecchiature, sono i mobili, sono restaurati, sono. Ma quindi se uno ha un computer che deve buttare via, lo porta da voi, giusto? Assolutamente sì, assolutamente ci sono, c'è l'Ecotech, che è una società che ci sta affiancando in questa nostra esperienza. Che, e dove ve lo porta? Ma noi abbiamo a Napoli la nostra sede, che è a Bidonville, che è al centro di Napoli, quindi potrebbe venire comodo. Siamo anche vicino, certo, alla nuova metropolitana, meravigliosa tra l'altro, che è facilmente raggiungibile. Il nostro indirizzo lo si trova sul sito www.bidonville.org. Perfetto. Ci sono tutti i nostri riferimenti. Questo per quel che riguarda questa, questo non spreco. Poi ci sono, poi c'è la filosofia del riuso, aperta in, in modo molto più generalizzato, che per alcuni sa, sarebbe anche probabilmente la porta del terzo millennio per alcuni economisti, cioè ci sono enormi risorse. Lei pensi soltanto che a Roma ci sono 10.000 cassonetti dell'immondizia, solo nella città di Roma. Ed è scientificamente provato attraverso l'Occhio del Riciclone, che è un centro di studi sociali. Molto bello il nome anche, l'Occhio del Riciclone. Assolutamente. Che in ogni cassonetto, ogni giorno, i recuperatori, che sono i, i sinti, i rom, sì, recuperano almeno un euro di valore, fra plastica, cioè, lei dice, ma invece più, di farli recuperare così, ma... in maniera illegale o, esatto, o borderline, sarebbe meglio istituzionalizzarlo. No, io sono perfettamente, quindi, ma noi sono, facciamo 10.000 una campagna, euro, sono 10.000 su euro questo, solo pensa, su Roma, solo nei solo cassonetti. Solo su Roma 10.000 al giorno, signori. Certo. L'altra volta Rossano Ercolini, maestro di Capannoli, ci aveva detto, se non ricordo male, glielo chiediamo settimana prossima che lo risentiamo. È un per caro il viaggio, amico, me lo saluterete. Zero Waste, volentieri. Che in, credo in 100 telefonini c'è un, no, o in 10, in 20 telefonini, un grammo d'oro, qualcosa del genere. Ma è l'oro è presente in tutta l'elettronica. Esatto. Signori. Senta, sì, però non crede che, poi ci salutiamo, per fare un passo in là, Enzo, non credi, ci siamo Augusto, ci siamo dati del tu. Intanto complimenti per questa iniziativa, oggi inviati cercasi, sei tu Augusto, sei il nostro, grazie, inviato. Grazie. Che ci vogliano però degli incentivi da parte delle, insomma, dello Stato, del governo, per sostenere queste cose economicamente, altrimenti fate la gara con le imprese. Guardi, che, guarda, io sono assolutamente, sarebbero i benvenuti, ma basterebbe anche soltanto la regolamentazione. Sì. Noi come Rete ONU abbiamo un progetto di legge, abbiamo già discusso con due governi, adesso è questo terzo, perché abbiamo cominciato con la Prestigiacomo, abbiamo continuato con Orlando, e qua i ministri oggi vanno abbiamo bene. Il nuovo, oggi abbiamo il nuovo Galletti. Esatto, il nuovo ministro Galletti, con il quale stiamo cominciando un discorso che speriamo mi ci auguro sia tempo di portarlo avanti, che non cambia tra sei mesi, perché questo basterebbe a dare incentivi. Venite al convegno a Roma il mese prossimo, così quando, che, quando? Saremo il 13 giugno a va Roma, bene, ci sarà proprio l'inizio della presentazione di due nuove riciclerie su Roma. Bene. Stiamo andando da fare, ragazzi. Molto come bene, complimenti. Al vostro inviato di Napoli vi saluto, grazie, e vi auguro buon lavoro. Grazie mille. Grazie ad Augusto Lacala, presidente di Bidonville. Rebit, il progetto per il recupero dei computer a Napoli, oggi inviati cerca. La settimana prossima sentiremo il racconto sulla parola chiave che abbiamo scelto questa settimana, che è vacanze. Vacanze, vacanze si intelligenti, sente, vacanze che inizia a far caldino. Esatto. Secondo me stiamo iniziando un po' presto, guarda che arriviamo lunghi così. Secondo me arriviamo col fiato corto a fine giugno. Siamo quasi a giugno. Già vacanze, maggio, ma le vacanze sarà l'ultima settimana d'agosto, magari. Adesso c'è il traffico, però. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E abbiamo Tiziana che ci chiama da Milano all'800 24 0024. Buongiorno Tiziana. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo raccontare un po', riallacciandomi all'imprenditore della Svizzera, sì, no? Che diceva che nei frontalieri francesi già 30 anni fa, sì, si organizzavano per non con andare a lavorare. Sì. Esatto. Mia sorella negli anni 70, che è maggiore di me, è stata assunta alle porte di Milano da un'azienda multinazionale che aveva molti dipendenti, nonostante ci fossero le mezzi pubblici per andare in azienda, però era un'azienda dove c'era un po' una mentalità probabilmente diversa della, sì? E cosa facevano? Dell'imprenditore. Avevano i pullman aziendali che ovviamente avevano i punti di ritrovo dove andavano a prendere in base agli orari che facevano. Che azienda era? Ce lo vuol dire il nome dell'azienda? No. Non è un problema. Non è un problema, è la Grace. Va bene. La Tiziana, quindi, grazie, sì, sì. Un po' indietro nel brava, tempo, le buone abitudini, le buone abitudini che si sono perse purtroppo, casi di welfare aziendale in questo senso, ma anche di mobilità sostenibile aziendale. Sarebbe bello rivederle all'azione. Leggo un, SMS che ci hanno mandato, non so se la notizia sia vera, ma mi sembra molto bella. A Los Angeles sulle autostrade ci sono corsie preferenziali per auto con almeno 3 persone, che si allaccia perfettamente, diciamo, al discorso che facevamo del nostro imprenditore svizzero. Prima di salutarci vogliamo parlare di un'altra iniziativa che riguarda il mondo dell'arte e della cultura. Art Glass, arrivano gli occhiali che rendono l'arte interattiva. A San Gimignano la sperimentazione in anteprima mondiale del nuovo sistema che trasforma la visita al museo in una esperienza di realtà aumentata. Buongiorno Luigi Di Corato, direttore generale della Fondazione Musei Senesi. Buongiorno a voi. Complimenti. Buongiorno. Ma veramente siete in anteprima, come scrive Repubblica, mondiale, o c'è un po' di enfasi? Basta, su queste cose c'è sempre un po' di provincialismo. C'è un po' di gara, sì. Dice mondiale, deve essere veramente sicuro. Però sappiamo che è veramente la prima sperimentazione che viene effettuata all'interno di un museo sulle opere che il museo ospita. Cosa, ecco, cosa succede a chi viene ai musei senesi, a San Gimignano in particolare? Cosa offrite di innovativo e di diverso? Beh, abbiamo praticamente provato a vedere cosa succede con queste tecnologie indossabili di cui tutti parlano, no? Ormai il rapporto fra tecnologia e museo si sta approfondendo sempre di più, vengono fuori cose sempre più interessanti quando non sono gadget, perché poi il limite è quello lì, no? Invece l'idea di utilizzare delle tecnologie che permettono di sovrapporre delle interfacce, delle informazioni, diciamo, che rendono più avvincente quello che stiamo guardando e permettono al visitatore di comprenderlo veramente, è quello che stiamo provando. Ma di fatto a fare. Si indossano degli occhiali? Sì, sono proprio degli occhiali, sì. Sono degli occhiali come quelli dei competitor, come quelli che sono tanto famosi adesso. Di Google. Sono prodotti da un'altra azienda che si chiama USIX, è un'azienda americana. Tra l'altro mi faccia dire una cosa, che questa settimana è stata svelato il retroscena dell'acquisto da parte, cioè dell'accordo tra Luxottica, azienda italiana, e la Google, proprio su questo versante. Voi siete con un'altra azienda, non importa, è però una bella iniziativa. Purtroppo abbiamo finito il tempo, Di Corato. Intanto grazie, magari poi ne riparliamo, perché siamo stati veramente crudeli oggi col tempo. I musei senesi, Art Glasses, beh, l'Italia insomma investe nella cultura, Carlo? Sì, assolutamente, dobbiamo risentirlo secondo me, perché era molto interessante, volevo anche capire come funzionavano questi occhiali, cioè se c'è una tecnologia per cui per vedere in 3D bisogna... Dai, comunque, li risentiamo. Ci fermiamo qua, ringraziamo Andrea Piana, ha scritto con noi il programma, Giorgio De Luca in redazione, così come Camilla Tomadini, Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo domani. Ciao da Carlo Gabardini e Alessio Maurizi, buon sabato, ciao!